Arrivo. E chi ha le voci vicine? Mi senti, Diego, mi senti? Mi apre la chiamata ma non sento nulla. Sì, Diego, adesso ti ho sentito. No, aspetta che ho lo stress. Tu come mi senti adesso? Io ho un po' ma è... Prova a fare una chiamata con la vecchia. Antonè, avvicese. Antonè, avvicese. E ripeto che... Antonè. Chi è? Chi è che parla? Pronto? Chi è che parla? Avanti. Antonello, sì. Chi è? Posso sapere chi c'è qua? Sì, io ho chiesto chi siete voi. Io ho chiesto gentilmente chi siete voi. Noi ci siamo da 30 anni qua. Attenzione, canale 7. PMR. Avanti. Chi è che sta parlando? Pure qua sono fuori frequenza. Prova. 1, 2, 3. No, lui. Qua sì, perfettamente centrato. Ho detto che sento qualcuno che parla per i fatti suoi qua. Ma evidentemente no. Non sono di Sassari, non lo so. No, qua sì, perfetto, lui. Allora, ma la chiave ce la posso anche buttare. Scusa un attimo, ma come mai è andato fuori frequenza? Se l'ultima volta che io ti ho sentito eri perfetto sia di segnale che di radio, non capisco. Come mai? Cioè, cos'hai toccato? Cos'è successo? Diego? Zero, nulla. Quando va là, così ho fatto problemi il microfono. E poi stanno problemi, vabbè, lo dà ogni tanto il microfono lo stesso. Adesso vediamo un po'. Giovane, stanno parlando, se stai zitto un attimo. Io lo voglio collegare quello con la rotellina sopra, no? A 1,5 di batteria. Se riesco a trovare la posizione o lo piatto. Ho capito, Lu. Vabbè, c'è qualcuno ogni tanto si mette in mezzo. E quasi quasi ti copre la modulazione. Quindi pregherei di ascoltare prima di pigiare il microfono, grazie. No, Lu, sicuramente è successo qualcosa, perché avere uno step così spostato di frequenza, praticamente da 0,75 vai a 0,76, è tantissimo, soprattutto per un veicolare come quello, è quarzato così, cioè nel senso che a PLL, capito? A vedere cosa è successo, ma veramente basso, basso, basso, eh. Ora, ammettendo il caso che sia anche l'antenna, ma la radio è andata completamente in tilt. Qua, ripeto, io non ho toccato niente, non lo so cosa sia successo. Forse magari ci sta, non lo so, io non ho fatto niente, quando me l'hanno dato così, poi se la che mi fa rufumbo. D'accordo, salutati che sto uscendo, sono già le 6, a rientrare non fa. Adesso andiamo a passeggiata lì al centro a vedere qualcosa e poi andiamo a mangiare qualcosa. Alla prossima, Cla, salutino in casa, ciao. Cappalu, ciao. Ok, dai, rimango qua in QRX e poi stavo cercando Antonello. Saluta mia Marina, ci sentiamo al limite in altre occasioni. Ciao Lu. Non lo so, io non te lo posso manco controllare. Chiedi a Stefano a vedere se riesce a darle uno sguardo. Perché io di quella radio lì non ne capisco un accidente. Ciao Lu, buona passeggiata. Sì, nel caso già mi vedo con Stefano, non c'è problema. Ciao, saluta anche a Anna. Ciao Cla, ciao. Ciao, grazie Lu. Antonello, ci sei? CQ canale 7. Attento Antonello, CQ canale 7. 7, avanti. Chi è? Avanti CQ canale 7. State comunicando nel 7 pulito o col 7 con i subitoni, Carlo? Cosa vuol dire 7 con i subitoni? Questo è il canale 7 PMR. Con che onore di parlare? Buonasera. Buonasera, io sto trasmettendo col 7 subitoni. 7 FM senza subuttoni, ma questa è una frequenza diretta, quindi subuttoni non ce ne vogliono. Ma sia Sassari? No, io sono da Uri. Ah, da Uri? Ho capito. No, io sono a Sassari, Claudio da Sassari. Qua c'è una graffetta di sassaresi che siamo già da un bel po' che facciamo questo qua. Sentivo poc'anzi parlare, ma non capivo se eravate voi, perché c'era un altro di Sassari che parlava. Lo puoi lasciare anche libero, normale, FM larga, senza nessun problema, ma subuttoni non ce ne vogliono qua, perché è una frequenza diretta. Sì, ok, noi va bene, anche però noi di solito usiamo i subuttoni per non disturbare, così per stare a posto. Però oggi, anche con i subuttoni, sta aprendo la frequenza pulita, strana, vabbè. Ma tu che radio stai usando tu? Un portatile? Sì, un portatile. Cos'è? Un Vox o un quelli cinesi? No, un Intec 50-50. Ho capito. No, io non uso quei giocattoli, io sono radioamatore, sto usando la mia radio in dotazione, anche se non la potrei usare, ma io uso questa. Con l'antenna grande, naturalmente, a 40 metri di altezza, perciò è per quello che ti sento, perché sei in fondo scala da Uri. Sì, ma infatti praticamente io ti sento come se sei dietro l'angolo qua. Vabbè, io sono la vista, io sono la parte più alta di Uri, e Sassari sono la parte più alta. Figurati che io ti vedo da Sassari, vedo tutto il paese illuminato, io sono su a Carbonazzi, alto, al grattacielo di Carbonazzi, scala di Ciocca, quello alto alto che c'è, quelle antenne che vedi passando da via Milano, quelle sono le mie. Allora con quelle antenne arrivi a Cagliari. Beh, Cagliari lo faccio in diretta, non ho problemi, ti ho detto sono radioamatore, quindi è chiaro, devo avere quelle antenne che girano da sole col motori, non solo Cagliari ma tutto il resto del mondo, non l'Europa, ma parlo del resto del mondo, ma quei livelli così è chiaro che si va molto in alto, però a livello locale così giocherelliamo, perciò Uri, io sono in pensione, però avevo un collega di Uri, non è morto, Pasquale Petretto. Abita qui in ingresso di Uri, scendendo giù in fondo, dopo, prima della piazza a destra lì. Non so dirti Pasquale Petretto, ma no, volevo chiedere invece, visto che tutti, ma vabbè, come mai? Interferisco solo io, quindi ti apro i subuttoni, forse perché sono troppo alto di potenza o la vicinanza, perché guarda che tra me e te non è che ci sia questa grande lontananza, io ti vedo tranquillamente da dove sono adesso, quindi no, non ci sono problemi. Apro solo io il subuttono oppure senti anche altra gente, te lo apri anche altra gente il subuttono? No, sento solo te, basta, gli altri percentili devo andare su 7 aperte, insomma, tu invece mi apri. È una cosa normalissima perché io ho l'antenna esterna e quindi è chiaro che la potenza stessa ti riesce anche ad aprirti subito, no? Perché è molto sensibile, capito? Non lo pensavo anche gli altri. Per me è una cosa normale, se io dovessi parlare con quella piccolina subito no, sicuramente non te lo apro, capito? Va bene. Allora divertitevi, dai, chiacchiera pure col tuo amico, io sono qua che sto dando un'occhiata al computer in attesa che entri qualcuno in radio dalle mie parti, non qua, e poi mi faccio una chiacchierata in altre frequenze amatoriali. ciao, piacere averti ascoltato. Comunque Pasquale, sì, ed è quel, guarda che lavora con la multinazionale spagnola, non so se l'hai mai visto, a Chonagua, quindi penso non ci siano altri, se magari hai visto una divisa è lui. Ah sì, allora adesso capisco, lo conosco benissimo Pasquale, è il fratello che conduce la produzione di Alla 7. Non me la sei, non me la ricordo neanche io, facevo prima a dirti così, sì, è un mio collega, bravissima persona, ci siamo sentiti anche da poco perché stiamo organizzando un saluto per prima di Natale, insomma, riunirci come facevamo ogni anno, siccome io però sono in pensione, allora adesso organizzano loro, io ho già organizzato per 35 anni. Ciao, piacere averti ascoltato di nuovo, io sono Claudio, la prossima volta magari ci sentiamo con più calma, ok? Ciao, buona serata. Ciao Maurizio, alla prossima, ciao, grazie.